Eccoti qua a credere nel mondo, seguendo i passi tuoi. Hey, e come va? Vivendo un'altra vita ed una strada non ce l'hai. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Lo sai, se segui sempre il vento, dopo ti ritrovi solo. E poi, quando ci stai, ma prova ad ascoltare, c'è un mondo dentro te, soffiando i passi tuoi, soffiando i passi tuoi. Chiederti perché che le stelle cadono, si è fatti per cambiare, dopo non è tardi. Fumi di parole che scorrono tra le nubi, vorrei poter dar forma ai sogni miei, alla realtà. Segui un'emozione, non fai battere il tuo cuore. Dai, guarda se può entrare questo cielo, l'universo insieme a te, cercando i passi tuoi, cercando i passi tuoi.